chiamato, quando hai chiamato non mi ha risposto. Mi non ho sentito nessuno io, deve essere che ho fatto prima io a girare che tu a rispondere. Ho chiamato il dottor Bocchi. Prendere un ascolto là. Ho capito. Andà bene nera. Eia. E oggi domani sono al riposo, meno male, mi fai bene. Ah, oggi a riposo, sì. E oggi o domani? Più recupero, devo fare due recupero. E niente, dopo domani rientro per il weekend. Oggi cosa è? Oggi è mercoledì. Quindi il giorno 1 è sabato, così è? E mi sa di sì. Allora, il 30... No, forse venerdì, allora 29 e 11, 30 domani, e domani è giovedì, venerdì e 1. Perché il 2 mi scade l'assicurazione, ma vabbè, ci vado il lunedì dopo, tanto ho 15 giorni di franchigia. No, ma per la polizia non valgono, valgono per l'assicurazione ma non per la polizia. Ehi, già lo so. Se ti ferma di vuole una multa, non è... No, io a febbraio devo pagare. A me mi scade il 2. E vabbè, come ti ho ritirando, era ancora di 1 a te. Perché sabato saranno chiusi le assicurazioni, così. No, magari la mattina no. E vabbè, vado il giorno 1 stesso, così me ne libero. Un tratteggio che era, quindi di un contratto, e lì capisci che tu mi piglia. Perché sennò non mi conviene. Lì, capito là. Dove la stai facendo sull'assicurazione? Da quello che la facevo prima, che adesso si è spostato là. Ah, quello che ti ho detto io? Quello che c'è dove c'è la pulizia adesso. Ehi, è lì, sì. E ha cambiato anche la persona, è l'ipote di fare così. Ehi, lo so, lo so. E dove la facevo io? E che cosa c'hai, la vittoria? Ehi, ah. Ma mi sa che si è alzato un po' più giù. Nella moto, una volta voleva 350 euro. E io gli ho detto, ma stiamo scherzando, guardi che io pago molto meno un'altra assicurazione, e adesso vediamo, ha comprato, per posso fare due qualche cosa, se ti ricarata andare. E infatti, allora vediamo come ti si piazza, a chi ne pago 2,80 io per la macchina, e essendo anche di classe, oltre a essere finito il contratto, me ne posso andare dove cavolo voglio io. Sì, sì, adesso non si dà manco disdetta, niente, di perso la prima. Prima si doveva dare la disdetta, non può che ne andavi, adesso no. Ma io la pago ogni 6 mesi, capito? Non mi conviene annuale. E 6 mesi. E poi, cioè, non ho il contratto di un anno, però la pago ogni 6 mesi, siamo una cosa così. Eia, anche io la pago ogni 6 mesi. Ma ho visto il computer che pago 220 al massimo ogni 6 mesi, capito? Chi tu si mi dici 380 e guardi, me ne sto andando. La tariffa, quella del computer la c'è sempre il tempo che trovano. Tu di contatto con l'utente personale non ne hai, se il telefono non ti rispondo, come l'hanno fatto a quest'amico mio che ha tamponato una macchina, gli ha fatto, diciamo, l'assicurazione, era colpa sua. Questa qua che mi telefonava, lei ha l'assicurazione di merda, questo e quell'altro, non rispondono mai, non so che cosa, divento l'avvocato, la natura sapeva di casino, capito? Perché non rispondeva. Oh, eppure, quella che avevo io, chi era in continenti, la Direct Line, è un'assicurazione come si deve, paga pure subito. Beh, perché non è continuato a fare quella allora? È perché mi hanno fatto uno sgarro, mi hanno fatto. assicurarlo con la vecchia polizza la macchina mia. E io ne facevo un'altra di polizza per la vecchia, capito? Così avrei pagato di meno. E allora hanno fatto rilassarsi, io me ne sono andato. Ah, ecco. Vabbè, ma già ce ne sono, c'è anche di fronte a Par Due Punti, ce la prendete quel palazzo che c'è? Nel portone, nel primo portone c'è un'assicurazione che fa pagare poco, ma lì ce la divia l'assicurazione, quindi mi ha detto che si paga, ha pagato un po' di meno di quello che pagava dove ci siamo noi. Sì. Era un preventivo per quello anche lì. Hai capito dove? C'è la cartolibreria di fronte, c'è quel portone, la Liguria mi pare che sia Liguria forse. Ehi vabbè, domando un preventivo anch'io, secondo quanto mi viene mi andando anche a salire. E infatti, ma diciamo che l'assicurazione bisogna farsi il giro dell'Oca, io dopo che avevo fatto quella lì avevo chiesto con i preventivi, poi l'ho fatta lì dove la facevo sempre e poi avevo chiamato la Liguria e mi hanno detto che mi faceva sapere che c'era un cliente in linea che mi stava facendo un documento, cioè, che mi richiamavano aspetta, non mi chiamano, a me mi scadeva l'assicurazione, sono dovuto andare la sera e farlo. Beh, fatto sta cazzo che dopo che ho fatto l'assicurazione con la Liguria mi prendeva 100 euro in mezzo. Sicuro. Capito. Ma io lì, quando sono andato lì, io prima ero un'altra assicurazione, quando sono andato lì ho risparmiato tra me, Liliana e la moto 500 euro. Sì, già lo so. E anche io ho cominciato anche a pagare di meno e tutto. Adesso vediamo come si piazza. E adesso è così, bisogna fare il giro di 7 chiese. Sarà scocciante perché devi andare quella, però se puoi pagare meno, perché pagare di più? Sempre con le stesse condizioni naturalmente. Se ti paghi l'assicurazione che non ti paga né ISO, non ti paga né altro, allora è inutile che la fai. E infatti. E poi io solo responsabilità civile e basta. Per dire, se tu danneggi cose non ti paga. Responsabilità civile, l'assicurazione normale che fanno tutti. RC auto. Sì, sì. Non hai furto, non c'hai incendio, non c'hai altri tipi di assicurazione che non valgono a nulla perché si incassano i soldi e è difficile che succedano queste cose. Tu dirai, può succedere, ma sono cose che loro calcolano di farsi un bel di soldi perché la maggior parte della gente non vede né furti né cinque. E infatti. Sono 5 su 1000 che ce l'hanno. Quindi a loro conviene, capito? E poi bisogna farsi sempre rivalutare e man mano che scalano gli anni, ci sono furti, loro se tu non glielo dici non ti fanno scendere di classe, quindi paghi sempre di dice c'è l'aumento, ma questo non dovrei pagare di meno, ma tu dici sì ma c'è l'aumento, quindi praticamente paghi sempre un mattese che si assicura. No, a me già mi ha parato, no, se me ne stavo andando, capito, basta utilizzi e te ne vai. Perché io me ne vado a vedere. A parte che c'è visto che mi hai detto tu, quello con la Liguria, no? Se mi fosse pagare di manco, a prima chicco e chi sa la canzone. Ma lo pensa anche a me, perché a febbraio a me mi scade. Se la Liguria ti prende di meno, è andato più lui. Perché adesso se puoi risparmiare le 100 euro, stanno comodo, E io ho visto. Ma... Comune. Ci abbiamo rimasto la scelta, chi devono giostrare sono loro, perché poi diciamo chi è cliente può guardare da uno all'altro, quello che spende meno va, c'è poco da fare, la guerra è fra loro. E poi io problemi non mi ho mai dato da quando vi gioco, mai dato problemi. E manco io, grazie a Dio. Mi hanno solo toccato e mi hanno dovuto pagare loro. Ma no, io problemi non ne ho dato, non so. sono capito, tu è un incidente per dire, questa qui sono andato da Pula a fare la spesa, metto la moto lontano da questa macchina, questo Renault Express, quelli che facevano prima, tipo Fiorino là, che è una donna che fa le pulizie, queste perciassecchi dentro. Fatto sta che entro da Pula, faccio la spesa, cazzo, entra questa donna e fa, chi è con la moto, perché l'ho urtata, ed è caduta in terra, cazzo. Sono uscito fuori, ho detto, signora, ma quella fotografiata la moto, no, quello c'era da prima, ma cosa c'era da prima, se la moto è nuova, non la vedo. E dice, come ha fatto a fare tutti questi segni che io gli ho dato solo un colpettino, a caduta in terra, sì, ma la moto pesa 200 kg, ha detto uno che ce l'ha facciata alla finestra, ce l'ho anche io uguale, pesa 200 kg, signora, se cade in terra si fa danno. E me l'ha cavato che era da prima così, non mi voleva fare l'assicurazione. Ho detto va bene, io prendo il numero di targa, poi cioè, ci vediamo dall'altra parte, e le metto la boccata, se non mi pare. Fatto sta cazzo che mi telefona questa ragazza e mi fa, Gianni, ma tu sei? Io ho detto sì, ah, guarda che mia madre è quella che ti ha toccato la moto, una amica mia. E mia madre è quella che ti ha toccato la moto, mi ha detto sì, ho capito, però la madre bisogna tirare le orecchie, perché se uno fa un danno deve pagare. Io ti capisco che sei un'amica mia, tutto quello che vuoi, e non la denunciare, mi ha detto che gli vuoi mettere la boccata, non la denunciare, guarda che già ti paga, non ti preoccupare, la comunico io, eccetera, eccetera. Perché devi aver paura che magari tu ci volessi giostrare, ma non ci vuole giostrare, la moto era nuova. Beh, fatto sta che ha tirato le lunghe, ma da qui alla fine ha pagato, mi hanno chiamato i periti, tutto quanto, l'hanno buttato poliziale, dice, ma lei ha detto che l'ha fatta cadere a destra, non a sinistra. Beh, guardi la destra se c'è un graffio, non c'è un graffio sulla destra. Lei ha detto cazzate, si ricorda male, oppure ha detto pensieri, poi ha detto che lei era marcia avanti, non era retromarcia, invece si è tornata retromarcia, ha capitato un po' di palla. Allora, finalmente, ascoltate, fate una cosa, come pagate, io stavo dall'avvocato, vediamo un pochettino, e dice, lei faccia come crede, e poi mi è arrivata la lettera dell'assicurazione che erano pronti subito, capito? E ha detto, vabbè, così fatto, dice, ma sto andando dall'avvocato, avevo detto, ma io voglio l'avvocato a me, ma viene pagato, l'avvocato buro. Sì, ma infatti poi, capito, c'erano testimoni, perché lei è entrata e l'ha detto, poi c'era quella facciata alla finestra che io ho cercato per mari e per monti, non sono riuscito a trovarlo, era facciata alla finestra, infatti ha detto, signora, guardi che la moto uguale ce l'ha anch'io, pesa 200 kg quella moto lì, se cade in terra si fa danno, è normale perché è pesante. Ma subito me l'avevo fatturato il numero di telefono da ISO che ha ricevuto tutto. Non dovevi fatturare nessuno, dovevi fatturare nome, cognome e numero di telefono. E così cazzo, quando ti pone l'avvocato la pigliava la buona. Ehi, ma già pagato lo mattessi, a pagare. Non ti preoccupare. Anche se poi io moto non è aggiustata, ho tenuto i soldi e abbiamo venduto anche la moto, mi sono fatto per tutto. E chi si va a fare i tuoi? No, perché tanto dovevo venderla, non ne valeva più la pena di aggiustarla, capito? Era graffiata e basta, qui il padrone glielo ho detto che c'era questa cosa perché me l'avevano buttata in terra, e vabbè dai, ci penso io, era, se la tenuto voleva che gli facessi uno sconto, ma io ho detto no, ma non la do di meno di così, 2000 euro buco. Va via dei zanni la tariffa, però io ho pagato 7.000 euro, non 2.000. E poi la tenuta come l'ha tenuta, perché ho sempre fatto italiani, e speso più di quanto di cazzo, ma quanto è più della macchina a fare italiani? Lo so, mi si è spostato il canale da Fanguala, perché c'ha da fare per cambiare il canale dal microfono qua. Lockdown. Ehi, anche a me lo facevo, infatti mi era antipatico il microfono. E comunque la moto un po' lo scorsa e quando mi si stava guardando la macchina, ecco, se avessi avuto la moto, avrei preso la moto e sarei partita qua su incasinato. Se no non me ne sono convinto tu io, che mi va venduta questa moto. E poi la gomma la pari commissione, pensa le castagne dell'era mi punivo, cazzo. Le casse dell'acqua a me, me lo mettevo nella pedana, via. Cazzo, quella moto, quanto macchina non ero più pigliato. Era la mia sotto la sella che ci stavano quattro buste di spesa, cazzo, cioè, quattro buste di spesa ci mettevo io. Perché poi i caschi ce l'avevo nel mauletto, quindi ce l'avevo libero il cofanetto sotto la sedia. Ma io già la usavo per fare commissioni, quando dovevo fare documenti, e andavamo con l'Iliana, prendevamo, mettevamo la moto da una parte, dove capitava, andavamo, facevamo le cose e poi tornavamo, c'era la moto tranquilla, aspettando a noi. Invece in macchina un casino a cercare parcheggio, fare lui, pagamenti. Io poi dico, ogni volta che vado all'ospedale sono 2 euro che pago, ci vado 2 volte alla settimana per le medicazioni, faccio un posto per dipendere a lui. E io lo so qui qua, la moto è troppo comoda. Io me l'ho venduta perché c'avevo bisogno di soldi, se no l'avrei fatta quella moto, a parte che era nuova, come no. Non voglio una bicicletta. No, io l'ho venduta perché, diciamo, perché ero tutta dolore, cose, mi stavano dando dolore alle mani, adesso mi sono ancora così e non viene a dire che è passato, però non potevo tenere la moto quando mi si bloccava la mano. E poi stavo facendo il parco macchine, 2 macchine, la moto, sa, le spese erano troppe. Questo periodo prima si poteva fare, adesso bisogna ce l'ho con la ciglia. Sì, infatti, credo di pubblico, assicurazione, se lo batteva, poi quella che fu di Tomolino, ma c'è. E non fare i fratelli come ti fai? Cosa? Hai detto vicino a sé c'è la cinghia, che fare i fratelli? Sì, i fratelli. no, a parte gli scherzi, qua. Non so più tempo che di parco macchine. Non una tutta la famiglia di macchine, vabbè, se c'è esigenza è un casino, c'è un casino. Un casino, vabbè, io ne avevo una, ad esempio, lo stesso, però un'altra mi serviva, quindi l'ho dovuta prendere. Anche se è piccolina, i costi ci sono, non la circolazione c'è lo stesso. Il motore è 2 lo stesso, e quindi sono 4. Va bene, non è entrato nessuno. No, io e la Salina ci siamo, non ti bastiamo. E pensavo che c'era quel porco di cose, di Marco Vino Conte, però c'è ancora sotto le coperte, sognando, perché lui sogna, capito, è un sognatore. Sono qua all'ascolto, sono su internet. Immagini il porco, io credevo che eravamo i forzati, con la zia che lo frustava col coso, col gatto hanno peccore. Già l'elenco è fende paro primo, mi, oh già l'elenco pronto, va paro primo, a comparare. Mi sembra che lo sta imporrando l'apparecchio. È un porco, un briacone tragico. Io credevo che era lavori forzati, la zia lo stesse frustando col gatto hanno peccore, invece no. Su internet il porco, te lo immagini? Mi sto guardando antenne. Sempre con parenti. Ehi, Natalina, ha scoperto una da 30 centimetri, molto sottile. Quello è un giusto compromesso tra quella mini che ti devo dare e quella da 50. Molto carina. Comprerò anche quella. Mi sto facendo i mazzi di antenne da macchina. Non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Comunque buonasera a tutti, Ciao Natalino, Claudio e Gianni, dai, stavo ascoltando roba di... Anche a me una signora l'aveva fatto, però era scappata, capito? Non so come ho rintracciato la proprietaria e non si faceva mai trovare a casa, capito? La gente di cacca, per non dire la parolaccia peggiore, la gente è di cacca. Ehi, ma tu non ti dovevi preoccupare, ti mettevi l'avvocato, già la cercava l'avvocato. E lui ti si pagava pure a lei. Vabbè, ma per una fesseria di danno non vado a chiamare l'avvocato, no, è ridicolo. Scenografia te le frecce un po' così, però intanto che costi 10 euro la freccia la volevo ripagata. Ma come mi ha fatto essere là? Perché mi ha detto quello che c'era affacciato, che oltre a farla toccata, continua a spingere dopo che ha sentito che era caduta in terra la moto, che l'ha fatta strisciare, capito? C'era strisciata anche nell'asfalto. Perché le donne sono deficienti, capito? Oltre che la buttano a terra, non è... continuano a spingere come ha fatto una vecchia a una persona. Ha bruciato lo stop, no, l'ha beccato di lato e continuava a accelerare. Vabbè che io una vecchia di 80 anni non ce la faceva più. Vabbè, comunque è così, eh. Le donne... Donna al volante, già lo sai, pericolo costante. Ma sono tutte così. Ci sono anche quelle che mi danno bene, no? Ma questa qua era una tipa già sui 65 anni, da. Però è venuta ad avvisarmi, dico la verità. Io nei negozi stavo facendo la spesa. È venuta ad avvisarmi, ha detto, chi è quella moto che c'è fuori? Poi tra l'altro lei era in negozio lo stesso. E stavamo parlando, noi due brutti, al caso sembra anche da matabuto. Poi è entrata e ha detto, chi è quella moto che c'è fuori? Io ho detto, la mia, perché? Perché l'ho buttata e contenta. Io, no, ho mollato spese in bocca. Sono andato fuori, la moto era in terra. Già che non ce la facevo più a sollevare, che ha dovuto aiutare un signore a sollevarla, se non ce la facevo. Ha dovuto essere un pochino di pesante. La tua è grossa di moto, lo credo che pesa. Purtroppo vedi gli scooter. Dicevo, le scooter cadono e le carene si graffiano e si rompono. È un macello con lo scooter. Vedi, se cadevano la Honda 400, se cadeva di lato la, come si chiama, la Kawasaki 250, al limite toccavano le frecce, toccavano le pedaline, toccavano il pomolo del manubrio, capito? Ma non si danneggiavano sul serbatoio, ma cose, gli scooter sono tremendi. La mia pesava più di quella di Gianni, cazzo, c'aveva anche gli specchietti elettrici, quando metteva il moto si aprivano gli specchietti. Oh, e che moto era? Un Dinky? Dinko? Come, no, come si chiama? Kimco? No, Suzuki C50, come quella di Gianni. Gianni c'aveva la 400, la mia era C50, dicevo. Mi già la pista pure Claudio. Faceva più di 200 quella moto, io eravamo come Italia. Ah, grossa era. No, io intendevo sempre scooter piccoli. Per città lo scooter vuole piccolo, un 125 va più bene. Vabbè, certo, se uno deve andare fuori città, fare viaggi e avere una moto, allora sì, allora sì. Però per città, io anche un cinquantino mi sarebbe bastato. Anzi no, Natalini, balle, tu l'acqua dove la portavi? Tu non la portavi in un cinquantino quattro tempi? Eia, me la mettevo nella pelana la cassa dell'acqua, poi c'era il baunetto, dove mettevo il casco, se dovevo prendere altre buste di spesa, me la mettevo nel baunetto, allora roba il cavolo, guarda, la mano destra era quella moto, era una Aprilia, aspetta come si chiama, lo Scarabeo 50 era, a 4 tempi, la mattina, appena toccavo il pulsante metteva in moto, figurati, e camminava a Burba sul 50. Sì, ia. Vabbè, riprendete, dai. Questo fatto non l'ha venduta la fesseria con la moto, se avessi trovato a prendermi la mia me l'avrei comprata io. Una fesseria l'ho presa a 1500 euro per fare, vero? Non mi rammento, no. Però quella moto, cazzo, poteva pisare. A me non mi piace la macchina, non è pisante. Ma se ho usato di stare di Claudio, una ricata, ora una piuma confronto alla mia. Vabbè, sono molto da viaggi didattici. Quella poi c'ha già una ciclica da moto a corsa. Che me l'ha detto Masala, se prendi quella lì, metterti le mani in tasca perché cambi i pneumatici e non è come questa, le pneumatici costano due volte di più, i pezzi costano due volte di più, è una moto che c'è una ciclica da strada, quindi vanno messe delle ruote tipo ruote da corsa e costano una barca di dinamica. La mia già costava 120 euro il copertone, infatti lo do. Minchia, solo un copertone, aspetta. 120 euro, ma sono, erano pistole, erano quelle buone, che tengono bene in curva, e le moto, se nella macchina le ruote sono una delle cose principali, nella moto sono ancora di più, perché se cadi in moto sono cacchi giù. Eia, eia, è vero. In moto, mamma mia, bisogna avere paura degli altri. Io non ho paura di me stesso, degli altri ho paura. E va bene. Va bene, vai Claudio. Sì, Claudio, posso sapere. Con le ruote a me me le hanno proposte altre ruote, però le mettevo sempre lì da Masala perché avevano quelli originali che monta appunto la fabbrica con le montoni, capito? Ci avevano gli originali, costava 120 euro, quella di davanti e mi pare quella di dietro costava un po' meno, 110 forse, una cosa del genere, ma 120 quella di davanti me lo ricordo perché per tutti mi avevo messo a quello, 120 euro, ma se ci avevo tutti quanti i bottini, quando io ho venduto la moto, ho detto, ma tutti gli altri li facevo. Qua ci sono tutte le ricette, guarda, tutte le date che gli ho passato non l'ho presa. Ogni anno io, prima di iniziare la stagione, li facevo tagliare. Buono, buono, almeno eri scrupoloso. Qualcuno le compra e non fa niente, niente, finché non si ferma non fa niente. Ma l'ultima volta che sono andato mi ha detto che ci voleva la funzione, siccome avevo già speso di soldi col tagliato perché ha cambiato alcuni pezzi che erano consumati eccetera, beh da scuola la pensione se la vuoi te ne do una io, ne ho una che è fatto un'altra moto, ne è nuova perché ha avuto un altro tipo di pensione, se vuoi ti piace quella te la regalo io, me la regalate, detto, questa qua ti farà altri 200-300 km, quindi devi cambiarla che è questa qua, e invece non l'ho cambiato, non sono riuscito a prenderla più. Natalino, guardati il messaggio. Quello è molto sottile. Lunga 30, ma come ti la pigiona mia, no? Però è più sottile, molto sottile. Sì, ne avrò metà io di 30. Qua che c'è il gnocchetto, tu ve l'hanno detto. Un gnocchetto sardo, un gnocchetto di patate. E più che il ricordo mentre ti ricordi. Capito? È dedicato proprio a quella. E misura bene con l'olio. No, dimmi, avete parlato in due. Quale rosmetro? Il 140-525, ciò, della Daiwa. Quello lì è buono, quello grande, a paghi incrociati. Ma tu l'hai sempre avuto il rosmetro o ce l'hai da poco, quello lì? No, ce l'ho da me questo. Lo usavo solo per lì, infatti questo, non ha stazionario là. Altro lo devo attaccare per vedere se c'è stazionario dove è adesso. Eia, eia, eia, meglio controllarle. Per esempio, se uno mette un veicolare, no? Portatile so, porta di stazionare delle antennine, no? Di serie. Ma il veicolare no, il veicolare deve lavorare con stazionari abbastanza basse, soprattutto salti basse, capito? Eia, va bene. E infatti. Ce l'avevo alto e adesso va abbassato. Attenzione Sassari, cambio. Avanti l'attenzione Sassari, cambio. Ciao Pinocchio. Buonasera ragazzi, da qua direzione sud 131 là. Ma Macera, Pirucetto, doppio rumba a questa parte in compagnia di Natalino, Alfa 1 e di Marco Rata Pignara. Avanti per tutti. Buonasera a tutti, anche qua piove, a Butuso c'è freddo, un bel. Beh, niente. Venerdì, sabato la messa un po', speriamo che ne faccia, se no moriamo di sette. Ah, ma a me queste stai fregando le facce. E se no i bacini non riempiono, no? Vabbè, hanno magari. Ma a me beh, non porta... Vabbè, che noi siamo un po' attrezzati qua, nella zona di Sassari siamo un po' attrezzati, non so in paese da te se siete attrezzati con spalature eccetera eccetera, ma qua attrezzati da parlare per tutto scarso. Vabbè, ma ognuno più o meno già c'ha tratturi. Un giorno staremo male, ma poi già ci sistemiamo. Ah, beh, lì con i tratturi basta attaccare la spada e cose. Ci spara tutto, già per raggiare. Già c'era il vulcano che portava il sale lì. E a Gigi Vulcano, qui. Beh, Gigi. Buonasera a tutti, dai. Se non c'è, già c'è lui che portavo il sale, ha potuto per sciogliere il ghiaccio e la neve. Ma tutti mangiavano anche i maiali pure. Non basta che ti facevamo i prosciutti pure da quel sale tuo. Anche le immagini, ecco, si scoprono gli altalini di questo Gigi Vulcano. Anche i maiali e i prosciutti si mangiavano. No, a testa, col sale facevo, però non era tutto buono il sale. Quando era buono glielo dicevo io, che guarda questo è quello, se no c'è una cosa che fa molto male, non si possono fare prosciutti. Però lì a Buduso molti non lo sapevano e quella fontana vicino al caseificio Pinocchio, quando ribaltavo a volte tutti pigliavano sale, però un giorno, per di volte ho ribaltato quello proprio, quello per alimenti buono lì, mi ricordo che te l'avevo detto, ho ribaltato proprio quello buono per alimenti, perché non c'era dell'altro pronto, capito? Ciao già Caprido, là mi sotto a casa tua sono all'uscita di Viale Italia, alla direzione sud, dai guida mia, avanti per te. Sempre mari. Qua. Ciao Gianni, ho visto che ha messo il turbo, c'è partito in quarta, poi siamo tanti qua, non c'è solo più Lucetto, saluta a tutti. A positivo, ciao già, e come facciamo a sentire? Io qua ho l'antenna che acchiappa tutto da qua, acchiappa tutto io da qui. Ciao già, buonasera. Ma stai qui che già ne vuole fare l'acquario nuovo? Sai che salutiamo a Pinocchio perché poi lo perdiamo, Oh, Pinocchio, dai, fate buon rientro, buon tutto, dai, e poi tutti allontani e non ti ascoltiamo più, dai. Alla prossimina, Pinocchio, saluta anche la compagnia che c'è in macchina, alla prossimina, ciao, avanti a chi tocca, avanti già. Ciao Pinocchio, dai, buon rientro, buon tutto, saluta tutti i tuoi componenti della tua barra mobile, avanti Natalino. Ciao Pinocchio, buon rientro, buon tutto, vai, avanti Marco. Marco, come al solito, sta pranzando. Avanti Pinocchio, se ti ascoltiamo ancora. Infatti lo abbiamo, lui sta andando al limite lo sentirà cosa Gianni, lo saluta Gianni Caprido, tanto lì a muro lo sarà quei presi lì adesso. Già ti ascolto Bassino, ma già ti ascolto già. Io con cara ci salto ben. Sì che ce l'ho sempre. Con questo c'ho il magno e poi c'ho il cobra. No, ma poi ne ho anche altri, cioè l'ARA 48 che non si tocca, e poi l'ARA 48 plus, ma Claudio tuo figlio, a parte che si è strappato già. E già ne va dei BMR potentissimi, è un guasciotto di buone. Non vedi già più c'è, mi sto ascoltando ma non c'è voce. Stai attento quando parli di BMR, di ARA KP2. Sono a tuo figlio invece della patente dell'animatore, danno la patente F. No, me ne intendo io non ci bazzico con le frequenze amatoriali, io vado, quelle sono frequenze di GP2, di Marco Condor va lì. No, non è vero. Arrivo a Stentino, se metti l'antenna sul tetto, si alza di Stentino. Spiegaglielo quante volte deve avere. No, non ci perdo tempo. Arriva, lo porta in macchina e arriva, va e torna e arriva. Posso? Allora, io con un Brondi FX10 omologatissimo, antenna fissa, su spiaggia, qualità, cioè portata ottica, proprio ottica, è arrivato al quinto, dal quinto pettine, da in riva al mare al quinto pettine, in riva al mare alla Marina di Sosso, 2 chilometri giusti misurati con la macchina, 2 chilometri portata ottica in riva al mare. Ti dico solo questo, quindi non puoi arrivare a Sassare Stentino col PMR originale e gommino. Nemmeno se fosse un PMR con antenna migliore, cioè con un PMR con antenna fissa migliore. Non esiste. Meglio mettere il baracchino, 1000 volte il baracchino. Sarà peluccetto, non lo sento io qua. No? Ho capito lo peluccetto. Chi mi vuole salutare? Ah, villaggi, l'ho salutata prima, capito? Io ho fatto i saluti anche a Villaggigi, capito? E a Passa Bassa non li ho ascoltato qua, dai. Col parroco, si scusa. No, mi sta ascoltando, mi voglio parlare, ciao anche a Gigi. Col parroco si è sposata, più capito? Salute che è buono. Ui. Va bene, proseguite. Ciao Claudio, ma a riposo sì, o stai lavorando ancora? Sono già dal 20 di ottobre e a casa. Ma definitivo, perché mi pare che avevo sentito qualcosa tempo fa, che stavi dicendo qualcosa che non trovo, che avevi possibilità di andartene. Sì, ciao Fortuna. Sì, 2 anni prima sono andato Gigi. Ho iniziato nel 76, avevo 16 anni, quindi mi hanno dato 2 anni di scivo. Ho capito, però lo stiamo sentendo. Allora, io non ho visto, però non, siccome ormai non mi interessava più, però ho sentito che chi ha iniziato adesso, ma lei la devono provare o l'abbiano provata, o che la stiano provando. Chi ha iniziato da Trecoce a lavorare Trecoce, gli danno questi 2 anni di coso per andarsene. Chi ha iniziato precoce, ma non sono sicuro di questa cosa, l'ho letta da qualche parte, lo stavo leggendo, ma forse in quelle cose che mettono in Facebook e cose così l'ho letto. Io ho iniziato nel 76, capito? C'avevo 16 anni, quindi 16 anni ci avevo, siccome l'età per poter iniziare a lavorare era 18 anni, e quindi mi hanno dato 2 anni e sono già andato. Da dicembre del prossimo anno, cioè da dicembre del lei, da gennaio del prossimo anno, mi hanno la pressione. Adesso ho fatto le ferie, ho fatto i 10 giorni di preavviso, ho fatto tutto, adesso sono a casa però. Sì, e io vi dico una cosa, che io dovevo andare, sai, quest'anno, e sono più di 2 anni in pensione, dovevo andare quest'anno io, nel 2017 in pensione secondo loro, perché non hanno fatto bene i calcoli. Capito? Perché io avevo contributi, anzi più che altri, queste cose ce l'avevo nel 71, o 76, 71 addirittura, no, 71, sì, 71, giusto. E siccome loro dice che non valevano, erano contributi che erano marchette in poche parole, non valevano nulla perché erano pochi, erano aggiornate allora, era assicurato aggiornate e avevo fatto 63 giornate, ed ero minorenne, poi se ne è accorta questa signora che ci ha dei punti, questa signora Giovanna, che sono andato lì, mi ha mandato questa qua, e questa se ne è accorta, dice, ma guarda che lei, 18 anni, nel 71, non ce li aveva, aveva meno di 18 anni, allora era minorenne, a lei bastano 51 giornate, bastavano 51 giornate per coprire un anno, hai capito? 51 ne bastavano, io non lo sapevo, e poteva andare dal 2014, 3 anni prima poteva andare in pensione. Sempre quella la legge, Gigi, anch'io non lo sapevo, sono andato al patronato, hanno fatto il calcolo, hanno mandato le mail all'Inps e le mail mi ha risposto, mi ha dato l'ok, capito? Sempre così, 51 giornate lavorative, un anno di contribuzione. nella maturità precoce, capito? Siccome io avevo 16 anni, quindi quei 2 anni me li hanno passati così. E va bene, va benissimo. A posto. A gennaio prendo la pensione, adesso me ne sto tranquillo e sereno, mi sto riposando, e invece mi gioco ammalato, guarda, la freddura è allucinante. Fai girare, Gigi, dai, buonasera a tutti comunque. Mi pare che tu hai detto fortunato poco fa, perché fortunato sta cercando la pensione pure, ma c'è fortunato per caso in circolazione? No, in Parigi, ha chiamato poco fa, se no è rimasto dentro la galleria, e forse in galleria, adesso quando esce già lo sentiamo. Ciao, Pinuccio Tormolo. Ehi, Avionce, aspetta che c'è fortunato, ciao fortunato. Non sta uscendo. Non sei uscito fortunato. Adesso sì. E c'è Gianni Natalino pure. KK, vai, doppio lo riprende. Ehi, ciao fortunato, mi sei dito anche a te, vai. Vediamo un po', Pinuccio, dove sei arrivato? Ah, poi ti sento ancora, vai. Sentiamo ancora. Quando ti perdiamo, se no lo ritieni più fortunato. Poi c'è anche Gianni Capricco, là, che adesso lo mandiamo a fare. Attaccato non vale. Fatevi capire. Sparviero. No, ma che? E parapago, santementato. Avanti Gianni Capricco, riprendi. Anzi, non avrei dato la mano di quella radio se sapevo che usciva così forte. Cacca una bomba, sì. No, se la manta va a piazza e basta. Se l'ho piatto pure, capito? Se l'ho piatto pure lì, non lo so, se è proprio la volta buona per non mettere più niente, già lui faccia vedere. E così ti piglia male qua, pensione senza radio, non ti ci vedo. No, sto avendo un'altra passione, capito? E quale sei decito a sapere? A correre in macchina. Qui deve andare a far negare amore. E che malo è? No malo, dispendioso come. Io beh. Ti devi abbassare in casa, sta uscendo strappato. Senti si voce che. Sì, ma è una palla. Ciao ragazzi. Sono io che saluto, se no non ti aspetteresti una mezzanotte. E diamo la ricordo. Sarà 105 a coso. Ottavio. Va bene, facciamo girare, dai. Gigi Vulcano, riprende e fai girare per Natalino. Ehi, ma per il Natalino si deve essere assentata. Ciao, fortunato se ci sei ancora. Sì, a Luigi, ciao! Sentito, Gigi ti ha salutato. Te l'ho detto basso basso, dai. Avanti Natalino se ci stai. Già ci sto. E non mi sono assentata. Già sono sempre qua. Andare, andare. Così è Claudio. Sì, io non lo sapevo neanche io. È stata questa signora quando sono andato poi, che è iniziato a sospettare, e sono andato proprio da questa qua e questa mi ha detto no, dice lei qua aveva meno di 18 anni. E l'hanno assicurato a giornate, ed era giornate che avevo io di lavoro, non settimane, giornate. E dice lì era minorenne e invece da un'altra parte a produttore, da un'altra non valeva, non servivano a niente, capito Claudio? E dice questa signora dice, non servono. Cioè qua dice lì nel 71 aveva, non ce l'aveva 18 anni. E come che vago? 51 giornate, giornate coprivano un anno, capito? E quindi adesso ti hanno arrestati? No, e quando me ne sono accorto che sono andato, cioè io dovevo andare nel 2017 secondo loro, andavo sempre lì a produttore, da questo patronato di produttore, cioè, hai capito? E mi diceva che dovevo andare nel 2017, dovevo andare a giugno 2017 secondo lui. E poi è venuto questo coso e sono andato da questa qua. E allora quando sono andato a questa, ma lei diceva che doveva andare già dall'anno scorso, dal 2014, doveva andare quando era controllata. Allora sono iniziato a fare tutto questo qua e ho fatto 43 anni e 40, ne ho fatto 43 e un mese. Ne avevo fatto già, quando ho fatto la domanda. Senza l'età. Non ti trovi la persona sbagliata, guarda. No, l'età avevo 60 anni già e ho 60 anni giusti ci avevo. Come ho io, capito? Come l'ho fatto a me. Va bene, sì, ma comunque bisogna stare molto attenti, come ha detto Gianni, perché secondo la che vai non ne comprende nulla. Io sono andato direttamente all'Ips, ho fatto 3 ore e mezza di fila, era pieno, sono andato alle 8:15 del mattino, mi sono uscito all'Ondizi, capito? Però mi ho tolto piedi, proprio perché il CAF non mi sapeva dare indicazioni giuste. Sì, ti diceva forse qui, là, ma vediamo, e questo conteggio però no, questo sì. Sono andato all'Inps, mi hanno fatto direttamente il conteggio loro, anche con il conteggio pensionistico, con tutto, e basta. Già va bene così. Ok, allora il cambio per Marco, vai Marco. Sto mangiando, a dopo. Mangia, mangia, sennò poi ti vai attraverso. Avanti, Pinocchio, dove sei arrivato? Radio, sto chiudendo, saluti. Ciao Fortuna, le lamette è comprata, te le hai. Cosa vuoi quest'anno, il panettone o le lamette? No, tutte e due. Va bene, va. Allora ti faccio il pacco. Giuro, ciao. Ciao Fortuna, un abbraccio. Pinocchio, Pinuccio. No, Pinuccio non avevi più. Natali, riprendi tu, Pinocchio non arriva più. E dai, io sto guardando roba al computer. Ci sentiamo alle prossime. Se vai delle roba al computer ci sentiamo alle prossime. Vai in radio, lascia la radio accesa. Vai Gianni Caprile. Marmi Sardi. Magari non senti proprio nessuno e aspetta il baraccio. Vabbè. Comunque tu dovresti abbassare appena appena il microfono, a mio avviso, perché stai strappando. Adesso va bene. Ah, va bene, bene, beh, puntuale, pagamenti, no? Va troppo bene, lo sai, troppo, troppo bene. Beh, il lavoro che facevo io, anche che prendo in meno, qualcosa in meno, la prendo sui 200-300 euro in meno, li prendo al mese, giustamente in pensione, da lavorare al lavoro che facevo io, però va bene lo stesso, e tanto li spendevo in giro, mangiando a volte in qualche trattoria, a volte panini e cose, e l'altro, fermavo in un bar, fermavo in l'altro, quando rientravo la sera avevo speso 20 euro, 20-25 euro così, capito, tra un caffè e un amico, gli offrivo una cosa e facevi colazione la mattina e poi la faccio tuttora, comunque non è che non la faccio lo stesso, poi la facendo ti piavi il caffè, la mazza caffè, quello e quell'altro e ti usciva lo stesso quei soldi lì al mese, mi capito mai? Sì, io lo stesso Gigi, perché ho accettato, perché c'erano 100, neanche 150 euro di differenza, però io da quando ci hanno tolto le macchine praticamente da casa vado a solo a prendere la macchina tutti i giorni, quindi quelle 80-90 euro di benzina ce le mettevo, anch'io colazione, capito, vabbè la faccio sempre, sigarette le compro sempre, però quelle 100 euro di benzina di ferrafa ci volevano, quindi ho accettato, se no potevo rimanere io, ho detto se rimane questo è il conteggio, se non rimane questo è il conteggio, c'erano 150 euro di differenza, ma adesso sono andato, dici, capito? A 14 ci arrivi tu, Gigi. E quella è. E anch'io più o meno, era 1670 lorde, una cosa del genere, quasi 1700 lorde, quindi come 1400 dovrebbe essere. I 1600 lorde sono qualcosa, che è così e così più o meno, dai. Perché non ti danno, adesso ti fanno in base alla paga base, a quello, non guardano le ultime, non contano più niente, loro si basano sulla paga base, la qualifica, quello che ci avevi e si basano su quella paga base lì, capito? Sì, sì, esatto, quindi infatti sono circa 200 euro di differenza. Va bene G, va benissimo, alla grande, guarda. Ascolta, un'altra domanda poi faccio girare. Ogni primo la danno? Sì, sì, tranquillo. Guarda, io vabbè l'ho messa in banca e mette la credita dalla mezzanotte delle cose 30 cosa fa, adesso per esempio venerdì è uno, guarda dalla mezzanotte, dopo la mezzanotte c'è già accreditato tranquillamente. No vabbè, io la prendo a gennaio 2018, 1 gennaio 2018, adesso devo ancora prendere la tredicesima e la liquidazione penso che mi diano anche prima di Natale, adesso vediamo, ma non è un problema quello. No, non mi preoccupo, però da gennaio 2018 io la percepisco, va bene, vediamo se Marco ha finito di mangiare, già è impossibile che Pinocchio non senta niente. provare che lì c'è un pezzo che non poi lui c'ha quell'antennina e passami, quella famosa c'ha va, però non è che c'ha lineari grossi sotto, non ne ha, capito? Ah, per quello, ho capito, no, perché di solito accompagniamo sino all'ingresso di Budogio, quindi non c'è problema, per fatto di aver sentito. Ok, va bene, quindi Natalina stai mai, Marco sta mangiando, riprendi doppio rum. Cosa qua, scusa? Ho detto riprendi. Io. Vabbè, adesso già tu impressionati. No, già, ma alla fine è già. Io ci sono rientrato e sono contentissimo perché va bene così. Però quando c'è poca differenza avere anche Gigi, cioè cosa rimane a fare? Tanto quei soldi li spendi. Li spendi perché sei in giro, io sento la benzina, oltre le 80-90 euro di benzina che spendevo al mese, ne spendevo altri 50-60, perché a volte sei con un collega anche di fuori, sai, vai a pranzo, paghi tu, sì, qualche volta facevo la fattura, l'azienda me la rimborsava, però sono spese, quindi alla fine fa 150 euro in meno, cioè dalla pensione. Cosa stai prendendo? 200 euro in meno, niente, ora vai a rimanere anche 2 anni in mezzo a un mezzo, no, già va bene, aspetta, 1400 euro di pensione, noi bucciare di gioco senza far nulla, boh, ci abbiamo lavorati, infatti, mio socio l'ha fatto lo stesso, prendeva 100 euro in meno, e ha detto chi se ne frega, almeno non rischio, mi prendo i quadri, con un quadro me ne faccio 3 volte di più, cosa me ne frega, cioè, non mi conviene più restare a stressare. Oh già, meno male che Gigi è un lavoro massacrante, un lavoro, non sei più un ragazzino, capito, quando arrivi a una certa età a guidare, a fare, non è così, io l'ultima volta parapresa per correre a destra a sinistra ho rotto, che ho fatto l'intercooler del fiorino nuovo, speriamo non me la debita già ne buio, perché per correre, per essere lì, per correre qui, per correre là, magari me lo faceva, lascia perdere, no, non do niente. Marco ci sei? Non è, ho la mascella in movimento. Va bene, capri due riprendi. Beh, c'è stato un break. Dopo che vado anch'io. Cosa ha già? No, ha già dei capelli stessi. Adesso vado anche in pensione, diciamo. Mi fai compagnia. A 65 ancora, 67 non è approvato. Quanti anni hai di contributi o più lunghi? Contributi ho 36 anni. No, non ci puoi andare, ho ancora 36 anni. Vabbè, tu dici tu questo. No, te lo dico io perché così, non ci puoi andare, ho 36 anni. Se vai con l'invalidità ti pagano l'invalidità, ma non ti danno la contributiva pensionistica, devi avere 42 anni e 6 mesi. Ti fanno i calcoli su quello che hai lavorato fino ad adesso e ti danno quella di invalidità, già parlato. Sì, vabbè, ma è come ha fatto Andrea, sono 1000 euro neanche. Perché Andrea come l'ha fatta l'invalidità? Quello che ha lavorato più invalidità arriva a 950 euro al mese. No, se ce la fai non ti conviene, arriva almeno a 40 anni. A 40 anni almeno arrivo a Gianni, troppo pochi ne hai. Poca la pensione così, capito? Lo so, ma il fatto è che non ce la faccio. Ma è il problema di studio, il problema di salute. Vabbè, quella è in prima linea, poi chiaramente non riesco a fare i conti in tasca, se te la senti fallo, io ce li ho e l'ho fatta, quindi sono andato col massimo, con la contributiva sono andato io, ho capito come Gigi Vulcano. Poi a proposito Gigi, una domanda, ma a 65 anni poi c'è qualche aumento oppure rimane sempre quella? Io penso che rimane quella, credo, non lo so, però io 65 anni non ce li ho ancora, ma penso di no, penso che rimanga sempre così, capito? Comunque tornando a Gianni, c'era un collega mio che ci sta ancora lavorando, eppure questo c'ha delle validità e ha avuto qualche intervento al cuore pure, sta continuando a lavorare e nonostante che gli abbiano dato dal medico, quello fiscale come si chiama, quelli quando fa le visite di lavoro, non può sollevare più di 5 kg, non può sollevare più di 5 kg e gli ha detto va in pensione, e però in pensione gli danno, non arrivava, ha fatto tutti i calcoli, le cose, arrivava 880 euro mi pare, non arrivava a 900 euro e sta ancora lavorando, guarda, sta cercando di fare qualche anno in più per dargli almeno 1000 euro di pensione, ed è più giovane di me, eppure non ce, mi faccio le tatuaggia e non ce la fa più a lavorare, non può sollevare lui per cosa, non può sollevare più di 5 kg, eppure non ci va per quel motivo, proprio per quel motivo, perché se no gli danno poco di pensione. È un mio amico che ha avuto un incidente, ha fatto il medico del lavoro, gli ha detto che non era più in grado di lavorare. Adesso deve fare così la domanda di pensione, perché praticamente l'ha proprio esonerato dal lavoro. Infatti è un po' incasinato, perché c'è famiglia numerosa, è un casino. E vabbè, ma adesso vediamo, si faranno i calcoli. Adesso io ho fatto l'ultima visita, ci avevo 80% di invalidità, non è che io sia a poco, e c'ho 80%. Adesso ho fatto l'altra visita, se mi fanno il 100% sono già in grado di andare in pensione. Siccome non sono furbi, non te lo danno mai il 100%, hai capito? Vuol dire a questo collega mio, gli ha dato l'80-85% mi pare che sia lì per cento, non gli ha dato il 100%. E dico una cosa, anche questo lo vorrà sospendere al lavoro, questo del tanto datore lavoro che l'ha voluto aiutare, l'ha detto, me lo tengo qua vicino, lo faccio fare qualche con la macchinetta piccola, che non lui, lui non è la macchinetta piccola, gli faccio fare qualche viaggio, eppure sta lavorando, sta ancora viaggiando, viaggia pure a Cagliari, che non ci potrebbe andare, se le succede qualcosa sono dolori anche per la vista, perché mi pare non può fare più di 50 km o 150 km, non può fare un percorso più di 150 km mi pare che sia, è una cosa del genere, capito? E non posso levare più di 5 kg, neanche una sponda, non può fare, eppure fa tutto questo ragazzo. Fa tutto e purtroppo poi contento, io l'ho visto anche da poco che quasi quasi non ce la faceva a sedersi sopra il camion, capito? Proprio perché gli mancano proprio le forze, perché ha avuto troppi problemi di salute, capito? È stato ogni mese va a fare la cosa, la carica di fuoco, come si chiama? La carica di cosa per pedalare quella bicicletta, perché ha avuto così al cuore, capito? Lo fa ogni mese lui, eppure se lui se ne può andare, gli danno una miseria, capito? E con quella resta lo fondo di pensione, capito? Non gliela aumentano più, no, quella rimane. Lo so, ma adesso vediamo, ci facciamo i conti in tasca, vediamo un po', secondo me non me, perché io per questi 35 anni, che 36 anni che ho di contributi, avevo lavorato anche alla TIMI, trasporti europei marittimi internazionali, e quella lì me la sono ritrovata nelle buste paga, capito? Magari aggiungendo anche quegli anni lì che ho fatto, riesco ad arrivare a qualcosa di più. Sì, già, però il problema è l'azienda, come ha detto Gigi, l'azienda ti aveva la mano, come ha fatto mio fratello, te l'ho spiegato, capito? Mio fratello è dipendente regionale, mio fratello sta lavorando ancora, l'hanno tolto, l'hanno messo in ufficio e sta lavorando per arrivare alla contributiva, quindi al massimo, ok, perché c'è un anno in più di me, capito? C'è un anno in più di me, quindi per arrivare alla contributiva l'hanno messo in ufficio, però percepisce la pensione. E come ha detto Gigi, nonostante la patologia che ha come la tua, però c'ha altri problemi grossi, perché è stato operato al collo, c'ha il collo storto, che l'avevano preso in pieno il coso di Porto Torres, lì lo scolabuso di Porto Torres l'aveva preso in pieno via Balai, capito? Quindi è invalido civile proprio, oltre la patologia che ha, è anche invalido civile. Non gli hanno dato il 100%, hanno dato il 90%, con il 90% l'azienda è riuscita a tollerare la pensione di invalidità. Quindi perché la pensione di invalidità all'azienda? Perché lui è stato assunto nel lontano 1980, non ricordo, c'era di Annibale Francesconi, sindaco di Porto Torres, lui è stato assunto come invalido, ok? Era stato assunto come invalido e quindi quell'assunzione è risultata, perché risulta, e allora l'azienda stessa finisce 400 euro tiro, più il suo stipendio. Allora deve fare, ogni anno deve fare 2,730, quello che guadagna ce lo glielo riprenda, ho capito. Però infatti mi ha detto adesso il prossimo anno, che lui va in pensione nel 2018, anche se più grande di me, ne chiamo proprio di me, percepisce praticamente la contributiva aziendale e la pensione se la fa togliere. Vabbè, cos'era quel mio amico che prendeva da poco, stava anche bene, gli dava uno stipendio più, mi pare, 700 euro di pensione e di invalidità. Però adesso il medico del lavoro si è messo in mezzo, gli ha detto che non era più abile al lavoro e praticamente gli hanno telefonato dalla ditta di rimanere a casa, che non poteva più lavorare perché il medico del lavoro aveva fatto tutto il certificato. Intervano quelli, maledizione, anche il mio collega l'hanno chiamato a fare le visite che facciamo semestralmente e gli hanno trovato l'Alzheimer, l'azienda l'ha mandata a casa. Fidati che prende poverino, meno male già sta bene, insomma, una persona che la moglie lavora, eccetera, prende neanche 450 euro di pensione al mese, senza stipendio, senza niente. A quanti anni ha? 59, mi sembra, neanche 60. Avanti. Ciao Marco, come sentito? In compagnia di Gigi Vulcano, Gianni W1 il sottoscritto. Marco, Nata Pignara e Claudio Sbarbero, Marco chi vuoi? E anche Capri. Ah, i Capri 2. E a quell'ora sono entrato a salutare, poi mi sono un po' ritirato, perché non c'ho voce Marco. Ciao, buonasera, ben ascoltato. C'ho questa raucedine, più parlo e più diventa rauca, quindi preferisco parlare poco, capito? Ehi, ancora già ci arriviamo a Campella, piano piano, vero Gigi Rucca? Così dirlo, Campella era come che fosse qua io. bei tempi, io. Avanti Gianni Capri 2, riprendi. Claudio stava dicendo, forse al telefono Claudio, già, dovrebbe essere al telefono. Sì, la minima te la danno. Allora, in base agli anni che c'è di contributi, allora, arrivato a 67 anni, un amico mio, solo 22 anni ne aveva, gli danno 750 euro, 760 euro li danno, però 22 anni di contributi già, 67 anni di età, capito? Con 22 anni danno 750 euro, una cosa del genere. E al Campisi? Pure il carabiniere era. E al cavallo è caduto. Calamara tutti. Adesso glielo dico, cazzo bidello. Ti piace il lavoro manuale, ma di carabiniere quanti anni ne ha fatto? E prendi quello che ti danno, sei più leggero, poi con l'andare degli anni ti fa anche comodo, fare lavori pesanti pesa. Diciamo che tu fai un lavoro che non è così straziante adesso, c'hai quegli orari lì, poi ti riposi, non è che stai viaggiando, facendo diciamo di continuo. Mentre invece io il lavoro lo faccio in continuo, il mio lavoro è anche pesante e con la patologia che ho ti garantisco che non è il massimo. Ti stacchi molto, ti fanno male le gambe, insomma, non è, e poi io sono molto debole in questo periodo, io mi sento molto debole, quindi è meglio se riesco ad andarmene in pensione anche con le, diciamo, con una pensione adeguata, però se no non mi conviene. Se ti faccio i lavori faticosi vuoi fare e vuoi andare a fare il bidello, che è il lavoro più mandrone che esiste. Beh, ogni lavoro è suo. Già, pensione adeguata, te l'ho detto, se ce la fai tira. Se no pensione adeguata è quella. Pensione adeguata è quella. L'ho già fatto, c'ho un altro collega di giovedì domani c'è una vista proprio, c'è il diabete, più altre patologie, vuole andare via, gli hanno dato il 90%, sta cercando di avere il 100%, i conti li hanno già fatti, sono intorno alle neanche 1000 euro, la rottura di palle, e anche lui ha iniziato nell'86 mi pare, nell'86 ha iniziato, 10 anni dopo di me, vabbè, così è. 81 che sto lavorando in questa linea. Già, l'ho fatto un po' 30 anni già. Quanto anni tu sei? Più 36 sono. Sempre 36. Se lasciamo la legge che c'era, 35 anni, allora eri a posto. Ma purtroppo vai a 67, che ancora è a 65. Oppure devi avere quasi 43 anni di tutti. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Della mamma, ecco saluta così, lo saluta così. Perché se ci fa qualcuno che cazzo sta facendo, sta recuperando qualche cosa? No, mi ricordo proprio Abbaia, capito? Abbaia salutava, era l'uscita, ma già ne capivo, ma cos'è il carabiniere a cavallo lì? Figurati noi, ma è già anni. Io ne ho fatto un po' di più. Però guarda già, 38 anni di lavoro, ancora non può andare in pensione, con una patologia abbastanza delicata, con altre cose che ha, sto cazzo di legge di merda. Ma quando mai uno che ha lavorato 35 anni, allora di che vicari di divisione, 35 anni, che ha 30, e si lamenta anche pigliare 1.000 euro di pensione, capite? E se uno che ne ha lavorato 43, allora lo sarebbe dite. Ci deve andare dopo 30 anni di contributi. E boh. E adesso che ne approfitto che è pronta la cena qua. Quello Marco sta pranzando, ma io devo cenare, io ho pranzato a luna oggi. Dai, vi saluto tutti cordialmente, la chiedevo che è pronta già la cena e vado, mangiamo quel piatto di minestrone io. E io a chi è? E poi non senta Giuseppe, avanti Giuseppe, un attimo di bianco. Aspetta che salutiamo anche. Ciao Gigi Volca, sei caduto e ti ha rotto la costola, così hai detto? Ciao Gigi. Esatto. Ma come si è? A letto sì? A letto sì, Giuseppe. Oh, ho capito, è caduto e si è rotto la costola, poi mi aggiorni o... Oh, vale, e qua c'è un casino nero, riprendi, lo più rompi. Ti aggiorno io. Quando più rompi le costole non si possono fare né gessature né niente, devi stare a riposo assoluto. Quindi sicuramente cucata. E baracchino come fa se c'è la cucina? Le cucate in altra manca. Allora ci avrà qualche poltrona, non lo so. Però deve stare in assoluto riposo. Anche perché quando ti rompi la costola a volte respiri anche male. Secondo che costola è. Non so per esperienza. C'è miseria, dopo capi due riprendi, dai, comunque. È così. Io sono andato di lusso, va benissimo, adesso se Gesù Cristo ci lascia ce la godiamo, e se no forti armati di biasimo me la futti binuta. Ehi, vabbè, no, non è grave, ma le costole sono, se per dire è a livello dello sterno ti viene male anche a respirare, se è più no magari, ma se a livello dello sterno viene male anche a respirare. Se sta all'ottici, se hai il raffreddore, ti riperponti lì, guarda, da crepare dal dolore. Lo so perché ho avuto un incidente e mi è stato costretto nello sterno, quindi ne ho avuto due di costole fratturate, adesso cosa vuol dire? E anche io ho avuto una frattura allo sterno, era così come anche già, mamma mia. Quando stanno attivo le stelle vedevo. Ui. Vabbè. Beh ragazzi, io vi saluto, grazie a tutti le due chiacchiere, ma non ce la faccio più, non vado, adesso no, c'è più caldo, io prendo una pastiglia, tanto adesso fra un po' le 8 pronta la cena. Ciao Gianni, ciao Gianni Capidue, ciao Marco, e ciao a tutti, anche a Marco Loaghe, ciao a tutti, comunque dai, un saluto circolare, ci sentiamo domani. Ciao Giuseppe, tieniti conto, stai attento. Giuseppe, dolori c'hai? Ciao, Giuseppe, ti musti, ti è rimasto? Gianni Capriglio, riprendi. E là, ciao Capriglio, ci sentiamo, dai, buona serata e buon tutto. E buona cena, dai. Guarda anch'io che ho potuto il cane, i tuoi come stanno? Bene. Ma ritieni in campagna? Che razza sono? Quelli sono anche i grusci, chissà quanto mangio. Il mio mangia due volte al giorno carne, non di quanto, mangia carne, crocchette insieme e la pasta che mangiamo lui, però senza sale, bollita senza sale. Il petto di pollo lo faccio bollito lo stesso, senza sale, e più le crocchette. Formaggio grattugiato con la padana in mezzo e via. E a volte li metto anche carote, zucchine in mezzo. Non le dare mai né lo guardo con le cipolle e le ossa di pollo, quello mi ammazza. E infatti. Quindi ti fa l'allevamento. E già rendono, rendono perché c'è il mio collega, il cane in corsi si fa i sudi. E cambia le cuffie ogni tanto, ma c'è già una buona riuscita di dinamica. Se però lui c'ha i box, c'ha tutto quanto per allevarli e diverte, capito? C'ha così lì, cani corsi e poi i pastori austriaci. Già, quel mio collega mi sono scappato, mi ha saltato la rete di 2 metri, mi pare. C'è andato in un'altra campagna, mi ha dannato un altro cane, mi ha fatto un casino lì. Ma ragazzi diventano più mali. Io non sono molto d'accordo a legarmi i cani. A portarli a guidare sì, però legarmi così a catena non mi piace. Diventano cattivi pure. E ciao, già, ti lascio andare, dai. Devo andare anch'io, ma tu sei chiacchierone, io sono più chiacchierone di te, quindi non riusciamo ad andarci. Ciao.